Capitolo 17. Il reverendo Camden Fairbrother, che Lydgate andò a trovare la sera successiva, abitava in una vecchia canonica costruita in pietra, abbastanza venerabile da stare alla pari con la chiesa su cui si affacciava. Anche tutto il mobilio della casa era vecchio, ma di un grado diverso di vetustà, quello del padre e del nonno di Mr. Fairbrother. C'erano poltrone dipinte di bianco, con dorature e corone e qualche resto di damasco di seta rossa con delle fenditure. C'erano incisioni che ritraevano Lord Cancellieri e altri famosi avvocati del secolo scorso. E c'erano delle vecchie specchiere che li riflettevano, oltre ai tavolinetti di mogano e ai sofà, rassomiglianti a sedie scomode allungate, tutti ben in risalto contro il rivestimento a pannelli scuri. Questa era la fisionomia del salotto in cui Lydgate fu introdotto, e c'erano tre signore a riceverlo, anch'essa all'antica, di una rispettabilità sbiadita ma genuina. Mrs. Fairbrother, la madre canuta del parroco, adorna di gale e di un fazzoletto dalla squisita pulizia, dritta, con l'occhio vivo e ancora al di sotto della settantina. Miss Noble, sua sorella, una damina più vecchia, dall'aspetto più mite, con gale e un fazzoletto decisamente più consunti e rammentati. E Miss Winifred Fairbrother, la sorella maggiore del parroco, di bell'aspetto come lui, ma sottomessa e calma, come facile che siano le zitelle quando passano la vita assoggettate ininterrottamente alle persone più anziane di loro. Lydgate non si era aspettato di incontrare un gruppetto così singolare, sapendo semplicemente che Mr. Fairbrother era scapolo. Aveva pensato di venire introdotti in un salottino cui i eredi principali forse sarebbero stati libri e collezioni di oggetti naturali. Anche il parroco sembrava avere un aspetto mutato, come accade alla maggior parte degli uomini quando delle conoscenze fatte altrove li vedono per la prima volta in casa loro. Alcuni in effetti appaiono come un attore che recita parti gioviali, scritturato infelicemente per fare il burbero in una nuova opera teatrale. Questo non era il caso di Mr. Fairbrother. Sembrava un po' più mansueto e silenzioso, perché chi teneva banco era la madre, mentre egli si limitava a buttare qua e là una bonaria osservazione moderatrice. La vecchia signora era evidentemente abituata a dire ai suoi familiari ciò che dovevano pensare e a non considerare nessun argomento del tutto sicuro se non era lei a pilotarlo. Poteva permettersi di esercitare questa funzione con tutto comodo, facendosi accudire in tutti i suoi piccoli bisogni da Miss Winifred. Frattanto, la minuscola Miss Noble portava al braccio un cestino, entro cui versò una zoletta di zucchero che dapprima aveva lasciato cadere nel proprio piattino come per sbaglio. Poi si guardò attorno con aria furtiva e tornò alla sua tazza di tè con un piccolo rumore innocuo come di un minuscolo quadrupede intimidito. Vi prego di non pensare male di Miss Noble. Quel cestino conteneva delle piccole economie messe da parte dal cibo che era più facile da trasportare, destinate ai figli dei suoi amici poveri, a casa dei quali si avviava trotterellando le mattine di bel tempo. Nutrire e coccolare tutte le creature bisognose era un piacere così spontaneo per lei che lo considerava in buona misura un vizio gradevole a cui era dedita. Forse si rendeva conto di nutrire la tentazione di rubare a coloro che possedevano molto per poter donare a coloro che non avevano nulla, e si portava sulla coscienza il senso di colpa di quel desiderio represso. Bisogna essere poveri per conoscere il lusso del dare. Mrs. Fairbrother accolse l'ospite con cerimoniosità e distinzione vivaci. Quasi subito li informò che non accadeva spesso che avessero bisogno dell'intervento di un medico in quella casa. Aveva insegnato fin da piccoli ai figli a indossare maglie di flanella e a non rimpinzarsi, abitudine quest'ultima che considerava il motivo principale per il quale la gente doveva ricorrere ai medici. Lydgate prese le difese di coloro i cui genitori stessi si erano ingozzati, ma Mrs. Fairbrother considerò pericolosa una simile visione delle cose. La giustizia della natura andava oltre. Sarebbe stato facile per qualsiasi criminale dire che invece di lui avrebbero dovuto essere impiccati i suoi avi. Se coloro che avevano dei cattivi genitori erano a loro volta dei poco di buono, dovevano essere impiccati per questo. Non c'era bisogno alcuno di appellarsi a ciò che non si poteva conoscere. Mia madre è come il vecchio Giorgio III, dice il parroco. Non le va la metafisica. Non mi va ciò che è sbagliato, Camden, io dico. Reggetevi ad alcune semplici verità e fate quadrare tutto con queste. Quando ero giovane, Mr. Lydgate, non si discuteva su quello che era giusto e quello che era sbagliato. Sapevamo il nostro catechismo e quello bastava. Imparavamo il nostro credo e il nostro dovere. Ogni credente che si rispettasse aveva le stesse opinioni. Ma adesso, anche se ripetete a memoria il libro stesso delle preghiere, è possibile che vi contraddicano. Questo fa sì che se la passino bene quelli che vogliono sostenere il loro punto di vista, disse Lydgate. A mia madre capitola sempre, disse il parroco con aria maliziosa. No, no, Camde, non devi lasciare che Mr. Lydgate si faccia un'idea sbagliata di me. Non mostrerò mai una tale mancanza di rispetto verso i miei genitori da rinnegare quello che mi hanno insegnato. Chiunque può vedere cosa succede a cambiare idea. Se si cambia una volta, perché non 20? Uno potrebbe vedere dei buoni motivi per cambiare una volta e non vederli per cambiarla ancora, disse Lydgate, divertito dalla risoluta vecchia signora. Ascoltatemi un momento. Se vi mettete a fare discussioni, non la farete mai finita quando un uomo non ha una mente ferma. Mio padre non ha mai cambiato opinione e predicava dei semplici sermoni morali senza controversie. E lui era un buon uomo, pochi meglio di lui. Quando mi porterete un buon uomo pieno di controversie, io vi porterò un buon pranzo leggendovi il ricettario di cucina. Questa è la mia opinione e penso che lo stomaco di tutti mi darà ragione. Sul pranzo certamente, mamma, fece Mr. Fairbrother. È la stessa cosa il pranzo, l'uomo. Ho quasi raggiunto la settantina, Mr. Lydgate, e mi baso sull'esperienza. Non è probabile che segua nuove luci, sebbene ce ne siano in quantità qui e altrove. Io dico, sono venute di moda con quei tessuti misti che non si possono lavare né indossare. Quando ero giovane non era così. Un fedele era un fedele e un prete, potevate esserne certo, era un gentiluomo, se non altro. Ma adesso può darsi che non sia altro di meglio che un dissenziente e voglia mettere in disparte mio figlio con la scusa della dottrina. Chiunque sia che vuole metterlo in disparte, io sono orgogliosa di dire, Mr. Lydgate, che egli regge il confronto con qualsiasi predicatore di questo regno, per non parlare di questa città, il che significa partire da un livello molto basso, almeno secondo il mio parere, perché sono nata e cresciuta a Exeter. Una madre non è mai imparziale, disse Mr. Fairbrother sorridendo. Cosa credete che dica di lui la madre di Tyke? Poveretta, cosa mai? Disse Mrs. Fairbrother, la sua asprezza smussata per il momento della sua fiducia nel giudizio materno. Fra sé e sé dice la verità, sta sicuro. E qual è la verità? Chiese Lydgate. Sono curioso di saperlo. Oh, assolutamente nulla di brutto, disse Mr. Fairbrother. Io un tipo zelante, non molto istruito e non molto saggio, credo, perché non sono d'accordo con lui. Andiamo, Camden, disse Miss Winifred. Griffin e sua moglie mi hanno riferito appena oggi che Mr. Tyke le aveva detto che non avrebbero avuto più carbone se fossero venute a sentirti predicare. Mrs. Fairbrother posò il suo lavoramaglia, che aveva ripreso dopo la sua piccola razione di tè e il pane tostato, e guardò il figlio come per dire: Lo senti? Miss Noble esclamò: Oh, poveretti, poveretti, riferendosi probabilmente alla doppia perdita del carbone della predica, ma il parroco rispose calmo. E perché non sono miei parrocchiani? E non credo che i miei sermoni per loro valgano un sacco di carbone. Mr. Lydgate, disse Mrs. Fairbrother, che non riusciva a sopportare uscite di questo tipo, voi non conoscete mio figlio. Si sottovaluta sempre. Io gli dico che così sottovaluta il Dio che lo ha creato e ha fatto di lui un ottimo predicatore. Questo deve essere un suggerimento rivolto a me affinché porti Lydgate nel mio studio, mamma, disse il parroco ridendo. Gli avevo promesso di mostrarvi la mia collezione, aggiunse voltandosi verso Lydgate. Vogliamo andare? Tutte e tre le signore trovarono da ridire. Non stava bene portare via in tutta fretta Miss Lydgate senza che potesse accettare un'altra tazza di tè. Miss Winifred aveva del buon tè in abbondanza nella teiera. Perché Camden aveva una tale fretta di portare un visitatore nella sua tana? Non c'erano altro che parassiti in salamoia e cassetti colmi di mosconi e tarme, senza alcun tappeto sul pavimento. Miss Lydgate doveva scusare quello stato. Una partita a cribbage sarebbe stata molto meglio. In breve si capì che un parroco poteva essere adorato dalle sue donne come il re degli uomini e dei predicatori, eppure queste potevano pensare che egli avesse un gran bisogno della loro istruzione. Lydgate, con la consueta superficialità di un giovane scapolo, si chiese come mai Mr. Fairbrother non avesse insegnato loro a comportarsi meglio. Mia madre non è abituata al fatto che io abbia degli ospiti che possano nutrire un qualsiasi interesse per i miei hobby, disse il parroco nell'aprire la porta del suo studio, che era davvero spoglio di comodità personali, come avevano lasciato capire le signore, eccettuate una pipa corta di porcellana e una scatola di tabacco. Gli uomini della vostra professione generalmente non fumano, disse. Lydgate sorrise e scosse il capo. Neppure quelli della mia, propriamente parlando, suppongo. Sentirete che quella pipa mi viene rimproverata da Bulstrode e compagnia. Non sanno come sarebbe contento il diavolo se ci rinunciassi. Capisco, siete di temperamento eccitabile, avete bisogno di qualcosa che vi calmi. Io sono più posato e con quella ozierei. Sprofonderei subito nell'ozio e ci vegeterei con tutta la mia forza. E voi volete dedicarla tutta al vostro lavoro. Io ho circa 10 o 12 anni più di voi e sono giunto a un compromesso. Alimento un paio di debolezze perché non diventi noi importune. Vedete, continuò il parroco aprendo diversi cassettini. Credo di aver fatto uno studio esauriente dell'etnomologia di questo distretto. Mi sto dedicando sia alla fauna che alla flora, ma perlomeno ho studiato bene i miei insetti. Abbiamo una singolare abbondanza di ortotteri. Non so se avete preso quel vaso di vetro? State guardando dentro a quello invece che i miei cassetti? Davvero non mi interessano queste cose? No, a paragone di questo stupendo mostro privo di cervello. Non ho mai avuto tempo per dedicarmi molto alla storia naturale. Sono stato preso molto dall'interesse per la struttura umana ed è ciò che è maggiormente in rapporto con la mia professione. Inoltre, non ho alcun hobby. Ho un mare in cui nuotare lì. Voi siete una persona felice, disse Mr. Fairbrother, girandosi e cominciando a riempire la pipa. Non sapete cosa significhi sentire la mancanza di un tabacco spirituale? Emendamenti scorretti di antichi testi o piccoli trafiletti su una varietà di Alphys brasiche, quella bella nota firma di Philomicron per il Twaddler's Magazine o un dotto trattato sull'etnomologia del Pentateuco? Comprendente anche tutti gli insetti non nominati, ma probabilmente incontrati dagli israeliti durante la traversata del deserto, con una monografia sulla formica, come fu trattata da Salomone, in cui si mostra che il libro dei proverbi concorda con i risultati delle ricerche moderne. Non vi disturbo se vi affumico? Lydgate rimase più sorpreso dalla franchezza di questo discorso che dal suo significato sottinteso, che il parroco sentiva di non avere scelto proprio la vocazione giusta. L'ordinata disposizione di cassetti e scaffali e la libreria piena di costosi libri illustrati di storia naturale gli fecero tornare alla mente le vincite a carte e il loro uso. Ma stava cominciando ad augurarsi che la miglior spiegazione di tutto ciò che Mr. Fairbrother faceva fosse quella vera. La franchezza del parroco non sembrava di quel genere ripugnante che proviene da una coscienza inquieta, la quale cerca di prevenire il giudizio degli altri, ma semplicemente lo sfogo di un desiderio di fingere il meno possibile. Evidentemente non era inconsapevole che il suo parlare così liberamente poteva sembrare prematuro, perché subito dopo disse: Non vi ho ancora detto che ho un vantaggio su di voi, Mr. Lydgate, e che vi conosco meglio di quanto voi non conosciate me. Ricordate Trowley, che ha diviso con voi l'appartamento per un po' a Parigi? Io ero un suo corrispondente e mi ha raccontato un sacco di cose su di voi. Quando siete arrivato la prima volta, non ero del tutto certo che foste la stessa persona. Quando scoprì che lo eravate, ne fui contento. Solo non dimentico che voi non avete avuto le stesse informazioni su di me. Lydgate in ciò intuì una certa delicatezza di sentimento, ma non la comprese neppure per metà. A proposito, disse, cosa ne è stato di Trailey? L'ho completamente perso di vista. Era molto pratico dei sistemi sociali francesi e parlava di andare in una zona selvaggia a fondare una specie di comunità pitagorica. Ci è andato? Niente affatto. Sta esercitando in una località termale tedesca e ha sposato una paziente ricca. Allora le mie idee sono quelle che resistono meglio finora, disse Lydgate con una breve risata sprezzante. Lui sosteneva che la professione medica era un sistema di inevitabili imposture. Io dicevo che la colpa stava negli uomini. Gli uomini che si inchinano davanti alle menzogne e alla follia. Invece di predicare contro l'impostura al di fuori delle mura, sarebbe meglio predisporre un meccanismo di disinfezione all'interno. In breve, riferisco alla mia stessa conversazione, potete star certo che tutto il buonsenso sta dalla mia parte. Il vostro progetto, però, è di ben più difficile realizzazione della comunità pitagorica. Non solo avete contro il vecchio Adamo, che è in voi, ma avete tutti quei discendenti dell'Adamo originale che formano la società che vi circonda. Vedete, ho impiegato 12 o 13 anni più di voi per rendermi conto delle difficoltà, ma Mr. Fairbrother si interruppe per un momento e poi proseguì. State osservando di nuovo quel vaso di vetro. Volete fare un cambio? Non l'avrete senza un ecobaratto. Ho qualche Afrodite, dei begli esemplari, sotto spirito, e ci voglio aggiungere una novità di Robert Brown, l'osservazione microscopica del polline delle piante, se per caso non l'avete già. Ma considerando quanto vi piace il mostro, potrei chiedere un prezzo più alto. Supponiamo che vi chieda di passare in rivista i miei cassetti e di essere d'accordo con me su tutte le mie nuove specie. Il parroco, mentre parlava, camminava avanti e indietro con la pipa in bocca e tornava a soffermarsi con aria affettuosa sui suoi cassetti. Sarebbe un buon addestramento, sapete, per un giovane dottore che deve accontentare i suoi pazienti di Middlemarch. Dovete imparare a conoscere la noia, ricordatevelo. Comunque vi darò il mostro alle vostre condizioni. Non credete che gli uomini diano troppo peso alla necessità di assecondare le assurdità di tutti, finché non vengono disprezzati dagli stessi stupidi che assecondano? Disse Lydgate, andando verso Mr. Fairbrother e guardando con aria piuttosto assente gli insetti disposti in perfetta gradazione, con i nomi scritti sotto con una calligrafia elegantissima. La via più breve è di far sentire quanto valete, così che la gente debba sopportarvi, che la aduliate oppure no. Lo ammetto di tutto cuore, ma allora dovete essere certo del vostro valore e dovete mantenervi indipendente. Ben pochi possono farlo, o lasciate perdere la vostra attività e non servite più a nulla, oppure portate le pastoie e tirate di buona lena là dove i vostri compagni di gioco vi spingono. Ma vi prego, guardate questi fragili ortotteri. Lydgate, alla fine, dovette rivolgere una certa attenzione ad ogni cassetto mentre il parroco rideva di sé. E tuttavia insisteva a mostrargli ogni cosa. A proposito di quello che avete detto sul portare le pastoie, cominciò Lydgate dopo che si furono seduti. Qualche tempo fa ho deciso di farne a meno il più possibile. Ecco perché ho risolto di non tentare di far nulla a Londra, almeno per un bel po' d'anni. Non mi è piaciuto quello che ho visto quando ci stavo a studiare. Tanti papaveri vacui e impostura che vi intralcia. In provincia la gente ha meno pretese di sapere e vi fa meno compagnia, ma per questa ragione vi tocca meno nell'amour propre. Vi fate meno sangue cattivo e potete seguire più tranquillamente la vostra strada. Sì, beh, voi partite avvantaggiato, siete nella professione giusta, fate il lavoro che vi sentite più congeniale. A certuni questo manca e si pentono troppo tardi. Ma non dovete essere troppo certo di mantenere la vostra indipendenza. Parlate di vincoli familiari? Chiese Lydgate, pensando che questi pesassero piuttosto forte su Mr. Fairbrother. Non del tutto. Naturalmente questi rendono più difficile molte cose, ma una buona moglie, una brava donna semplice, può veramente essere di aiuto a un uomo e conservarlo più indipendente. C'è un mio parrocchiano, un tipo in gamba, ma che ben difficilmente se la sarebbe cavata come ha fatto senza sua moglie. Conoscete i Garth? Non credo che fossero parenti dei Peacock. No, ma c'è una Miss Garth dal vecchio Firstone a Lowick. La loro figlia, un'ottima ragazza. È molto tranquilla, l'ho notata solo di sfuggita. Lei però vi ha notato bene, credetemi. Non capisco, disse Lydgate. Non poté certo dire naturalmente. Oh, lei valuta tutti. L'ho preparata per la cresima, è una mia prediletta. Mr. Fairbrother per alcuni momenti emise in silenzio degli sbuffi di fumo, perché Lydgate non interessava sapere altro dei Garth. Infine il parroco posò la pipa, si stirò le gambe e con gli occhi luminosi si voltò a guardare Lydgate sorridendo e disse: Ma noi di Middlemarch non siamo mansueti come credete. Abbiamo i nostri intrighi e i nostri partiti. Io sono un uomo di parte, per esempio, e un altro è Bulstrode. Se voterete per me, offenderete Bulstrode. Cosa ha fatto di male Bulstrode? Chiese Lydgate con veemenza. Non ho detto che ha fatto qualcosa di male, tranne quello. Se voterete contro di lui, ve ne farete un nemico. Che io sappia, non devo preoccuparmi di questo, fece Lydgate in tono piuttosto orgoglioso. ma sembra che abbia delle buone idee sugli ospedali e spende grosse somme per opere di pubblica utilità. Mi potrebbe essere di grande aiuto per realizzare le mie idee. Quanto alle sue credenze religiose, beh, come disse Voltaire, gli incantesimi distruggeranno un gregge di pecore se somministrati con una certa quantità di arsenico. Io cerco l'uomo che porti l'arsenico e non mi curo dei suoi incantesimi. Molto bene, ma ricordatevi di non offendere il vostro fornitore di arsenico. Allora, quanto a me, non mi offenderete, lo sapete, disse Mr. Fairbrother, con aria del tutto semplice. Io non traduco il mio vantaggio come un dovere per gli altri. Mi oppongo a Buzzroot per molti motivi. Non mi è simpatica la cricca a cui appartiene. Sono un gruppo di gente ignorante e ottusa e si danno più da fare per far star bene il loro prossimo a disagio che per migliorarlo. Il loro sistema è una specie di spirito di conventicola mondano spirituale. Considerano davvero il resto dell'umanità come una carcassa condannata a nutrirli affinché raggiungano il paradiso, ma, soggiunse sorridendo, non dico che il nuovo ospedale di Buzzroot sia una cosa cattiva. E quanto a volermi cacciare via dal vecchio, beh, se mi considera una persona dannosa, non fa che restituirmi un complimento. E io non sono un prete modello, solo un decente compromesso. Lydgate non era del tutto certo che il parroco diffamasse se stesso. Un prete modello, come un dottore modello, avrebbe dovuto considerare la propria professione la migliore del mondo e prendere tutte le conoscenze semplicemente per alimentare la sua patologia e terapia morale. Si limitò a dire: che ragione adduce Bulstrode per sostituirvi? Il fatto che io non insegno le sue opinioni, che egli chiama religione spirituale e che non ho tempo da dedicargli. Entrambe le affermazioni corrispondono alla verità. Ma in questo caso potrei trovare il tempo e mi piacerebbe guadagnare 40 sterline. Questa è la versione pura e semplice del caso. Ma non parliamone più. Volevo soltanto dirvi che se voterete per il vostro fornitore di arsenico, per questo non dovrete togliermi il saluto. Non posso fare a meno di voi. Siete una specie di circumnavigatore venuto a stabilirsi da noi e manterrete viva la mia credenza negli antipodi. Adesso ditemi tutto dell'agente di Parigi.